stupore della notte spalancata sul mare. Ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio la tua mano d'improvviso sulla mia. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore.